ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Lida Mantovani di Giorgio Bassani. L'inverno del 1929 fu eccezionalmente duro. Per trovarne un altro che potesse paragonarglisi, asseriva Oreste Benetti, bisognava risalire a quello famoso del 1903, quando perfino il Po era gelato, o anche magari a quello del 17. Prese a nevicare verso Natale e seguitò neve e neve fino alla Befana. Il freddo comunque era ben lontano dall'aver raggiunto le punte straordinarie che avrebbe toccato nei mesi successivi. Anzi, subito dopo la Befana ci fu un breve intervallo di sole, di tepore quasi primaverile, e la neve già si scioglieva. «Ci sarà da fidarsi?» si domandava Maria Mantovani. Dal letto, dove attorno ai primi di dicembre era stata costretta per colpa di una influenza che le avrebbe poi lasciato alcune linee di febbre e una brutta tosse, la vecchia ascoltava lo sciacquio prodotto lungo via Salinguerra dal passaggio di qualche veicolo. No, non c'era da fidarsi, finiva col rispondere a se stessa, gli angoli delle labbra piegati sotto la coperta in una smorfia amara. Quel caldo, ma più del caldo tutta quella nebbia che a cominciare dalle prime ore del pomeriggio veniva su dalla campagna e aveva l'aria di bagnare tale e quale come la pioggia, non permettevano anche ad averne voglia di farsi nessuna illusione. Per prima cosa, non appena entrato, entrava senza suonare, era stata Lida da tempo a fornirlo di una chiave, Oreste Benetti si sbarazzava del pastrano fradicio attaccandolo a un chiodo sporgente dalla porta d'ingresso. Discendeva poi la scala tutto allegro. Infine, dopo essersi seduto come sempre a un capo del tavolo, cominciava a parlare. Da un paio di mesi, cioè da quando Ireneo era stato ammesso come internista al seminario, l'argomento principale dei suoi discorsi era diventato quello del ragazzo. Naturalmente, diceva, per arrivare a una decisione ci sarebbe voluto del tempo. Tuttavia, secondo il suo modesto avviso, valeva la pena di riflettere fin da adesso su ciò che Ireneo avrebbe potuto fare da grande. Le tre classi del ginnasio inferiore. Quelle, in ogni caso, sarebbe stato opportuno che le finisse. Ma dopo? Ritirarlo dalla scuola e metterlo subito a lavorare da qualche parte? No, d'accordo. Una volta però che avesse preso la licenza media inferiore, una scelta fra i vari indirizzi di studio, a Ferrara non c'era mica il ginnasio-liceo soltanto, che diamine, c'erano le magistrali, l'istituto tecnico da dove si usciva ragionieri o geometri, nonché l'istituto industriale del vicolo Mozzoro-Versella. Una scelta in un senso o nell'altro si sarebbe finalmente imposta. Una sera, arrivando, annunciò non senza solennità che quel pomeriggio stesso era passato dal seminario. Fattosi ricevere da Don Bonora, il prefetto succeduto ormai da 20 anni al povero Don Castelli, gli aveva chiesto di Ireneo. «Cosa vuole che le dica?» si era limitato a rispondere da principio Don Bonora. «Siamo appena agli inizi, all'analisi logica e a quella del periodo. Il latino vero e proprio dobbiamo ancora affrontarlo». Lui allora aveva provato a domandargli che cosa pensasse di Ireneo come carattere, al che il sacerdote, seppure continuando ad esprimersi con grande prudenza e delicatezza, aveva replicato che sì, effettivamente, il carattere del ragazzo gli dava alquanto da pensare. Era presto, si capisce, aveva soggiunto, per poter formulare su di lui un giudizio definitivo. Che si trattasse ad ogni modo di una natura un po' fiacca, un po' svogliata, su questo, purtroppo, non gli pareva che ci fosse da dubitare. Il legatore strinse le labbra. Quindi, d'un tratto, passò a parlare della stagione. «Per me non ne siamo ancora fuori», disse alzando gli occhi al soffitto, fiutando l'aria con diffidenza. «Il peggio deve ancora venire». E Maria Mantovani, stesa sul suo letto in fondo alla stanza, dal tavolo dove il legatore e Lida al solito si fronteggiavano, non se ne vedeva che il naso pallido e prominente, con le nere fessure verticali delle due narici, si affrettò ad annuire, sorridendo in silenzio per conto proprio. Monti aveva ragione. La stretta più forte dell'inverno doveva ancora venire. All'inizio della terza decade di gennaio, infatti, il cielo di nuovo si chiuse, la temperatura si abbassò e in un'atmosfera sconvolta ad ogni istante da raffiche brutali, riattaccò a nevicare furiosamente. Pareva di essere in alta montagna. Ridotte a sentieri, ad angusti camminamenti conservati sgombri a fatica dalle squadre avventizie di spalatori che il comune aveva prontamente ingaggiato, le strade, specie quelle secondarie, non consentivano passaggi altro che alle persone. Siccome poi fin da principio e un po' dovunque i bastioni cittadini erano divenuti meta quotidiana di una folla entusiasta di improvvisati sciatori, in maggioranza studenti, a un dato momento fu deciso dalla Federazione Fascista di promuovere appunto lassù, e precisamente lungo quel tratto delle mura che va da Porta San Giorgio a Porta Reno, addirittura delle gare, col risultato che via Salinguerra, per solito così deserta e silenziosa, si ritrovò trasformata da un giorno all'altro in un'arteria piena di movimento e di strepito. Di colpo lo stato di Maria Mantovani si aggravò. La febbre ricominciò a salire, il respiro le si fece affannoso. Venne chiamato un medico che subito dopo un rapido esame dichiarò trattarsi di polmonite. Se c'era pericolo, altro che se ce n'era, confermò il dottore rispondendo a una precisa domanda dell'ometto di una certa età, forse un parente dal quale era stato convocato. Le condizioni generali della malata, che soltanto a guardarla apparivano abbastanza precarie, non lasciavano presagire niente di buono. Prevista, temuta, si annunziò la crisi del quinto giorno. Maria Mantovani non staccava gli occhi dalla finestra. Di là dai vetri, attraverso i quali la luce diurna stentava a filtrare, scorgeva la neve cadere, fitta, a vortice. Sforzava l'udito. Via Salinguerra risuonava fiocamente di grida allegre, di passi precipitati. Cos'è che stava succedendo? Fuori? Si chiedeva. La città sembrava in festa. Ma perché mai ogni voce, ogni suono le giungevano da tanto lontano? Non ci sento bene, si lagnò. Non ci sento più. È come se avessi dell'ovatta nelle orecchie. Nevica, rispose piano Lida, che sedeva di fianco al letto. Per questo ti sembra così? La vecchia ebbe un piccolo riso astuto. Non è mica per questo, mormorò scuotendo il capo e abbassando le palpebre. Dopo un paio di ore prese a rantolare. Bisognava pensare al prete. E difatti il legatore, rapido a dileguarsi, riapparve di lì a poco insieme col parroco di Santa Maria in Vado. Frattanto la stanza si era riempita di gente. Si trattava in massima parte di donnette del vicinato, da nessuno avvertite eppure presentatesi spontaneamente. In che modo erano entrate? Lida non poté fare a meno di chiedersi. Possibile che Oreste già, rifletté, così col suo nome basta, prima d'allora non l'era mai venuto di chiamarlo. Possibile che Oreste avesse trascurato di tirarsi dietro la porta di casa? Comunque fosse andata più tardi, quando al termine della mezz'ora successiva il prete si fu accomiatato, le vicine non abbandonarono la stanza. Rimasero tutte, raccolte sotto la finestra coi loro scialli in testa e bisbigliando giaculatorie. Rigido al centro della camera, Oreste Benetti teneva le mani giunte. Non appena il rantolo cessò, fu sollecito a venire avanti e a curvarsi sul capezzale. Leggere e esatte, le sue mani provvidero a chiudere gli occhi sbarrati di Maria Mantovani, a incrociarle in cima al petto le braccia scheletriche, per poi, da ultimo, con qualche tocco sapiente, passare ad aggiustare le lenzuola in disordine e la coltre scivolata quasi per intero sul pavimento. Durante tutto questo tempo, fino a che, compiuto il suo lavoro, il legatore non si fu riportato senza rumore al punto di partenza, Lida non aveva fatto un solo gesto, un solo movimento. Ma anche dopo, una volta scomparse alla sua vista le grosse mani operose di colui che ben presto, oramai lo sapeva con certezza, sarebbe diventato suo marito, anche dopo rimase là, seduta di fianco al letto, a fissare il profilo di cera di sua madre. Le palpebre socchiuse, il naso che appariva ad un tratto più grande, più forte, le labbra accennanti a un vago, assurdo sorriso felice. Quella fisionomia fin troppo familiare le si rivelava di colpo diversa, tale come se solamente adesso lei fosse in grado di coglierne tutte le particolarità. Non si saziava di guardare la faccia di sua madre e sentiva intanto che qualcosa di vecchio, di acre, di duro, le si veniva adagio sciogliendo dentro. Si coprì il volto con le mani e si mise a piangere, in silenzio. Alla fine rialzò il capo, girando gli occhi pieni di lacrime verso il legatore. «Lasciatemi stare», disse sottovoce. «Anche voi, Oreste», soggiunse annuendo. «Andate via anche voi». «Va bene, cara, va bene», balbettò l'altro intimidito. Le vicine già partivano. Dopo essersi accodato a metà scala al loro gruppo, Oreste fu l'ultimo a raggiungere il pianerottolo e, richiudendo la porta, l'ultimo a sparire. Col gomito puntato nella coltre e con la guancia appoggiata alla mano, Lida, rimasta sola, pensava alla madre, a se stessa, alle loro due storie. Ma pensava a David soprattutto. A David e alla stanza del palazzone di via Mortara, dove al principio di una lontana primavera era andata a vivere insieme con lui. Era successo così. Una sera, sul finire dell'inverno, di quel medesimo inverno durante il quale, data la noia e l'insofferenza che trasparivano da ogni gesto e da ogni parola di David, lei si aspettava da un momento all'altro che lui le dicesse «Basta, Lida, sarà meglio che d'ora in avanti non ci vediamo più». E in questa attesa si consumava. Una sera, uguale a tante altre, David le aveva proposto di punto in bianco di mettere su casa assieme come una coppia di operai qualsiasi nel palazzone di via Mortara. Si era deciso a rompere definitivamente coi suoi, aveva aggiunto, e questo per farsi una nuova esistenza. Avrebbero abitato in una mansarda, una bella poetica mansarda all'ultimo piano, con vista, oltre che su tutta la città, sulla campagna fino ai monti di Bologna. Lui, per mantenere la famiglia, sarebbe entrato in zuccherificio. E lei? Che cos'altro poteva fare lei se non rispondere subito di sì, come quell'altra volta, la primissima, quando incontratisi per caso in un locale all'aperto di Borgo San Giorgio? Lei a quell'epoca contava poco più di 16 anni, non era che una ragazzetta, insomma, in tutto e per tutto. Avevano fatto coppia fissa l'intera serata e poi verso mezzanotte erano finiti in un prato delle mura. Una volta di più non si era posta nessun tipo di domanda, lei non aveva esitato un attimo solo. Qualche sera dopo era uscita di casa con un fagottino sotto il braccio che sua madre, pur senza osare al solito di farne parola, aveva certamente notato. E ciao! Che pazzia, si capisce! Eppure soltanto più tardi, molto più tardi, quando dopo aver partorito era tornata a stare da sola nella camera del palazzone e il bambino non smetteva di piangere e lei si sentiva il petto ogni giorno più vuoto di latte e non le erano rimaste che poche lire, soltanto allora aveva cominciato a svegliarsi dal lungo sogno ad occhi aperti che fino a quel momento era stata la sua vita. Ma lui, David, chi era? Si chiedeva adesso, dopo tanti anni. Che cosa cercava? Che cosa voleva veramente?